Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Il grosso scoglio della trattativa all'Italia sembra legato alle persone in particolari condizioni, handicap, maternità, eccetera. Ma quante persone sono coinvolte da questa casistica? 50? 500? 5.000? Sarebbe interessante capirlo, per poter meglio comprendere la situazione. In altre parole, se questi casi fossero pochi, sarebbe lecito pensare che si tratta di una battaglia di principio, di certo fuori luogo, ancorché giustificabile. Oppure si potrebbe pensare che le vere ragioni delle agitazioni risiedono altrove. E se è così, dove? Mi sembra uno dei tanti punti poco chiari di questa vicenda. Alessandro. In un paese normale, anzi civile, tutti i dipendenti all'Italia che sono assolutamente e oggettivamente dei privilegiati sarebbero senza lavoro da mesi, se non da anni. Nelle loro condizioni avrebbero dovuto firmare qualsiasi cosa. Qualcuno spieghi a queste persone che non ci fanno pena. Andrea, Milano. Una chicca sugli zingari. In un sondaggio online effettuato dal maggiore quotidiano rumeno, alla domanda «Considerate giustificata la misura delle autorità italiane di prendere le impronte degli zingari?», l'82% del campione ha risposto sì. «Io sono romeno e anche a me risulta che gli zingari vendano i figli e rapiscano i bambini». Mihai. Non so voi, ma per me non è un pregiudizio, bensì una certezza, il fatto che gli zingari vendano i loro figli anche su ordinazione. Mi riferisco, per ciò che conosco, a una realtà albanese, dove è stata documentata perfino la vendita di bimbi rom in Grecia, fatta dagli stessi genitori. Il documentario è andato in onda nella TV albanese Top Channel, in una trasmissione televisiva che si chiama Fix Fare, è una specie di Striscia la Notizia, dove passo per passo hanno documentato il traffico che è avvenuto e che poi si è concluso con l'arresto dei trafficanti da parte della polizia greca. Le immagini mostravano che le donne addirittura potevano iniziare una gravidanza per poi vendere i bambini ai compratori, che non si sa che fine fanno fare a questi bambini. Tutta la mia famiglia è rimasta sconvolta dalla leggerezza con cui queste persone riescono a vendere i propri figli. Io sono papà di due bimbe e ancora oggi mi viene la pelle d'oca. Isa Hiseni. Egregio dottor Gianfranco Fabi, il suo intervento relativo alla evasione fiscale rilevata in Italia, fatto in risposta alla lettera di un ascoltatore, si è incrociato con la notizia dell'avvenuto patteggiamento presso il Tribunale di Bari, fatto dalle principali case farmaceutiche operanti in Italia, Bracco, Glaxo, Schering, Novartis, eccetera, giudicate responsabili di una gigantesca truffa fatta al Servizio Sanitario Nazionale. Allora, la questione non è esclusivamente il rilascio della ricevuta fiscale da parte di professionisti e artigiani, ma l'esistenza di un'economia sommersa, 290 miliardi di valore, che evade IVA, IRPEG, IRPEF e contributi previdenziali ed assistenziali, dovuta in gran parte all'assenza dello Stato in Campania, Calabria e Sicilia, come ben descritto nel libro inchiesta Gomorra di Saviano. Personalmente sono stato favorevole a tutte le iniziative proposte dal precedente governo per dare tracciabilità a tutte le forme di pagamenti da eseguire, che l'attuale esecutivo ha notevolmente ridimensionato, se non abolito. È diventata mia abitudine pagare con carta di credito ogni acquisto fatto in negozi, o ogni pranzo fatto al ristorante, data l'abitudine degli esercenti a non rilasciare le ricevute fiscali. Ritengo che la lotta all'evasione debba essere la priorità dei governi italiani e che il suo ricavato dovrebbe andare esclusivamente a costituire un importante fondo di ammortizzatori sociali, ad incrementare le spese per la ricerca e a ridurre il debito pubblico. Si avrebbe un indubbio vantaggio per tutti i cittadini italiani, senza aggiungere l'evidente valore etico di quanto sopra. Agostino. In Italia esiste un popolo ormai emarginato dal credito. I protestati e i cattivi pagatori, che così nominati fanno pensare solamente a individui poco raccomandabili e di dubbia moralità. In verità si tratta di disgraziati che, come me, vivono delle situazioni di pubblica gogna, in quanto i nostri dati vengono forniti a chiunque ne faccia richiesta, nello spregio di qualsiasi normativa sulla privacy. Ci tengo a precisare che un individuo o società può rimanere iscritto nel bollettino dei protesti anche per 5 anni e in centrali rischi del credito bancario per 3, nonostante il saldo di eventuali pendenze nei confronti di istituti di credito o creditori privati sia stato onorato. Elenco solo alcune delle limitazioni di libertà generate da questo sistema. Ad esempio, un protestato non può aprire un conto corrente a meno che non conosca personalmente un direttore di banca o veramente non si prostri in ginocchio. E questo anche solo per poter depositare del denaro. Un protestato rischia anche di non poter prendere un appartamento in affitto, perché la proprietà può interpellare il registro informatico e verificare la presenza di protesti e rifiutare l'aspirante inquilino. Fuori da ogni prospettiva è l'accesso al credito per canali normali e legali. Addirittura, se una famiglia ha la disgrazia di avere un protestato nello stato di famiglia, tutti i componenti hanno poche probabilità di accedere al credito, anche in presenza di capitali immobiliari privi di ipoteche. Se il titolare di una ditta individuale è protestato, anche i suoi dipendenti che percepiscono regolare busta paga possono vedersi respinte richieste di finanziamento. A me è capitato anche di essere scartato in fase di colloquio di assunzione con aziende che, sulla base delle qualifiche ed esperienze professionali, mi ritenevano candidato ideale per le figure da loro cercate, ma in quanto protestato non potevano assumermi. Per 10 anni ho fatto il commerciante e la mia attuale situazione mi impedisce di portare avanti la mia attività, perché i fornitori, anche in presenza di rapporti consolidati negli anni, non possono dare elasticità ai protestati. Alessio da Cagliari. Cara Radio 24, sono 3 mesi che vivo e studio a Tokyo, finanziato dalla mia famiglia che fatica all'interno dell'attuale situazione economica italiana. Non è semplice per uno studente all'estero vivere tranquillamente in un altro paese, ascoltando e leggendo le notizie che provengono dall'Italia, soprattutto per chi, come me, non ha la possibilità di usufruire di borse di studio, perché alla mia facoltà studi artistici non è ammessa la possibilità di offrire borse di studio. Qui a Tokyo, molti miei coetanei si stupiscono della mia preparazione tecnica e umanistica, mentre io mi stupisco delle possibilità che loro hanno all'interno delle loro istituzioni. I loro laboratori hanno enormi finanziamenti e molte attrezzature alle quali ogni studente può accedere, tranquillamente e indisturbato. Loro hanno le possibilità tecniche e noi, che veniamo a sudare uno scambio culturale, abbiamo l'elasticità mentale. Come la mettiamo? Michele. Dopo la comparsata alle recenti elezioni politiche del partito di Giuliano Ferrara, nato per porre l'accento sulla legge 194 e meritevole di aver fortemente rianimato il dibattito sulla difesa ad oltranza della vita, notiamo che attorno a noi, silenziosamente, svariate forme di vita adulta hanno un valore paragonabile allo zero. Osservando meno distrattamente le esistenze che ci scorrono a fianco, si percepisce quanto sia imperante il relativismo nel dibattito sul reale valore della vita. Preconcetti culturali arroccati a ideologici principi fanno sì che vi sia un'esasperazione nei toni quando si vuole ad ogni costo difendere la sopravvivenza di un feto appena formato, di un malato terminale, di chi è in stato vegetativo da anni, come nel caso di Eluana Englaro. Credo che chi ha a cuore la vita e si batte con forza per la sua difesa in questioni così delicate e opinabili dovrebbe quantomeno con la stessa energia contrastare lo schiacciamento, spesso silenzioso, di tutte le altre realtà di esistenze. Molto spesso, invece, le battaglie ideologiche sono incoerenti, dove la difesa dei principi etici, in modo così ottuso, è evidentemente fine a se stessa. Quale valore ha per molti l'incolumità di chi viene ucciso per strada? Che valore ha la vita di un disabile per le istituzioni e per i politici che ci amministrano? Qual è il valore nel nostro sistema economico dell'esistenza di chi dorme ai lati delle nostre strade, dei senza tetto o di chi è in condizione di povertà e difficoltà economiche? Quanto vale la vita di un precario, di un interinale, di chi vive oggi con angoscia per il futuro, di chi muore sul lavoro per produrre più in fretta? Per quanto vi siano persone che devono giustamente scontare delle pene, qual è il valore e la dignità della vita in alcune carceri? Credo che il tempo per le arroccate difese ideologiche fine a se stesse debba finire. Sono le condizioni reali che devono muovere le opinioni, non i preconcetti triti e ritriti di chi non vuole vedere la realtà. Viviamo in un'Italia individualista, che vuole difendere il proprio giardino dall'assalto degli accattoni, che si accorge dei drammi solo quando entrano in casa e solo allora, forse, si cambiano idee e si ribaltano visioni limitate e bigotte sul vero valore della vita. Marco, provincia di Belluno. Ho letto che l'onorevole Di Pietro ha appena etichettato Silvio Berlusconi come presidente Videla, a seguito della mancata nomina di Orlando alla commissione di vigilanza Rai. Io non sono un esperto di storia, ma credo che Videla sia stato a capo di un regime caratterizzato da pesanti violazioni dei diritti umani. Mi chiedo se far eleggere un candidato diverso da quello indicato dal PD e dall'Italia dei Valori si possa definire come violazione di diritto umano. Si può essere d'accordo o meno con Berlusconi, ma credo che Di Pietro dovrebbe finirla con le sparate quotidiane. I lavoratori che il governo vuole rottamare e l'invio ai forni crematori sono solo un esempio delle affermazioni dell'ex PM. Io capisco che la necessità di Di Pietro sia quella di avere visibilità e di fare barricate per guadagnare un pugno di voti. Ma sinceramente adesso si sta esagerando. Credo anzi che queste critiche siano alla fine favorevoli a Berlusconi stesso. Se poi questo è il livello del dibattito politico in Italia, beh, c'è poco da stare allegri. Fabrizio. Con l'avvento della crisi finanziaria, la Banca Centrale Europea ha abbassato per ben due volte il tasso di sconto, portandolo al 3,25. Eppure il giorno 5 di questo mese mi sono trovato la rata del mutuo aumentata di ben 50 euro, equivalenti ad un aumento di circa il 5%. Anche il tasso Euribor è sceso, ma chissà perché la mia rata è aumentata. Il governo dovrebbe fare un decreto che obblighi le banche ad applicare sui mutui il tasso di sconto reale, che è del 3,25. Questo per tutelare i milioni di italiani che hanno la rata del mutuo, ma anche per dare una minima spinta ai consumi e, di conseguenza, per fare un tentativo, anche minimo, di rilanciare l'economia. Se il governo ha deciso di garantire che tutte le banche italiane evitino un possibile fallimento, non vedo perché non deve obbligarle, anche solo per questo mese, ad applicare il tasso di sconto e non l'Euribor. Giuliano. Caro Giuliano, il problema dei mutui a tasso variabile è sentito da moltissime famiglie che hanno giustamente approfittato negli anni scorsi dei tassi particolarmente bassi per acquistare la propria casa. I tassi sono poi cresciuti e spesso le banche non avevano messo sufficientemente in guardia sul reale significato della parola variabili. Per molte famiglie il mutuo si è così rivelato un impegno insopportabile. La crisi finanziaria di queste settimane ha portato ancora più in alto il livello dei tassi e soprattutto li ha fatti salire in maniera anomala, ben al di là dei tassi di riferimento della Banca Centrale Europea. Lei mi chiede: il governo poteva intervenire? La mia risposta è sì, il governo doveva intervenire. Esiste lo strumento del decreto legge nei casi di necessità e urgenza. E questo era e resta un caso di necessità e urgenza. Perché va bene aiutare le banche, ma chiedere loro il piccolo sacrificio di applicare per alcuni mesi i tassi ufficiali sarebbe stata una giusta contropartita. Aiutare le famiglie, in casi come questo, vorrebbe dire contribuire a costruire quella fiducia che è tanto necessaria per evitare la crisi economica. Grazie per l'attenzione. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it o agli indirizzi dei singoli programmi. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.